Il narratore audiolibri presenta Alla ricerca del tempo perduto Dalla parte di Swann Parte prima Combré di Marcel Proust Lettura di Alberto Rossatti Una produzione Il narratore audiolibri Zovencedo, Italia, 2021 Capitolo primo. Per molto tempo sono andato a letto presto. A volte, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano così in fretta che non avevo nemmeno il tempo di dirmi «mi addormento». E mezz'ora dopo, il pensiero che era tempo di cercare il sonno mi svegliava. Volevo posare il libro che credevo di avere ancora fra le mani e soffiare sul lume. Dormendo, non avevo smesso di riflettere su quanto avevo appena letto, ma le mie riflessioni avevano preso una piega un po' particolare. Mi pareva d'essere io stesso quello di cui si parlava nel libro. Una chiesa, un quartetto, la rivalità fra Francesco I e Carlo V. Quell'impressione durava ancora qualche istante al mio risveglio. Non turbava la mia ragione, ma mi pesava come delle squame sugli occhi e impediva loro di accorgersi che la candela non era più accesa. Poi cominciava a diventarmi incomprensibile, come dopo la metempsicosi i pensieri di un'esistenza anteriore. L'argomento del libro si staccava da me. Ero libero di approfondirlo oppure no. Recuperavo subito la vista e mi stupivo di trovarmi avvolto da un'oscurità dolce e riposante per gli occhi, ma forse più ancora per la mente, cui appariva immotivata e incomprensibile, come qualcosa di veramente oscuro. Mi chiedevo che ora potesse essere. Sentivo il fischio dei treni che più o meno di lontano, come il canto di un uccello in una foresta, rilevando le distanze, mi descriveva la distesa della campagna deserta, dove il viaggiatore s'affretta verso la stazione più vicina, e il sentiero che percorre gli resterà impresso nel ricordo per l'emozione dovuta ai luoghi nuovi, ad atti inconsueti, agli ultimi discorsi e agli addii sotto la lampada straniera che lo seguono ancora nel silenzio della notte, alla dolcezza imminente del ritorno. Appoggiavo teneramente le guance contro le belle guance del cuscino, piene e fresche come quelle della nostra infanzia. Accendevo un fiammifero per guardare l'orologio. Quasi mezzanotte. È il momento in cui il malato, che ha dovuto mettersi in viaggio e pernottare in un albergo sconosciuto, destato da una crisi, si rallegra, scorgendo sotto la porta un raggio di luce. Meno male, è già mattina. Tra poco i domestici si alzeranno. Potrà suonare. Qualcuno gli verrà in aiuto. La speranza del conforto lo rincuora nella sofferenza. Ecco, gli è parso di udire dei passi. I passi si avvicinano, ma poi si allontanano. E il raggio di luce sotto la porta è scomparso. È mezzanotte. Hanno spento il gas. L'ultimo domestico se n'è andato. E lui dovrà restare tutta la notte a soffrire, senza rimedio. Mi riaddormentavo. E a volte non avevo che brevi risvegli di un attimo. Il tempo di avvertire gli scricchiolii organici delle boiserie, di aprire gli occhi per fissare il caleidoscopio dell'oscurità, di assaporare, grazie a un momentaneo barlume di coscienza, il sonno in cui i mobili erano immersi, la stanza, quel tutto di cui non ero che una piccola parte e alla cui insensibilità tornavo subito a unirmi. Oppure, dormendo, avevo raggiunto senza sforzo un'età della mia vita primitiva trascorsa per sempre, ritrovato qualcuno dei miei terrori infantili, come quello che il mio prozio mi tirasse per i riccioli e che era svanito il giorno che me li avevano tagliati. Inizio per me di una nuova era. Nel sonno l'avevo dimenticato quell'episodio. Ne ritrovavo il ricordo non appena riuscivo a svegliarmi per sfuggire alle mani del prozio, ma per precauzione affondavo completamente la testa nel cuscino prima di tornare nel mondo dei sogni. A volte, come Eva da una costola di Adamo, una donna nasceva nel mio sonno da una falsa postura della mia coscia. Generata dal piacere che ero sul punto di gustare, immaginavo che fosse lei a offrirmelo. Il mio corpo, che sentiva nel suo il mio stesso calore, voleva congiungersi con lei. Mi svegliavo. Gli altri esseri umani mi apparivano lontanissimi al confronto con quella donna che avevo lasciato solo da qualche istante. La mia guancia era ancora calda del suo bacio, il mio corpo indolenzito dal suo peso. Se, come a volte capitava, aveva i tratti di una donna conosciuta nella mia vita, mi consacravo completamente a un unico scopo: ritrovarla, come che si mette in viaggio per vedere coi propri occhi una città desiderata e si immagina di poter godere nella realtà l'incanto del sogno. A poco il suo ricordo svaniva. Avevo dimenticato la fanciulla del mio sogno. Un uomo che dorme tiene in cerchio intorno a sé il filo delle ore, l'ordine degli anni e dei mondi. Svegliandosi, li consulta d'istinto e vi legge in un attimo il punto della terra che occupa, il tempo trascorso fino al risveglio. Ma i loro ranghi possono confondersi, spezzarsi. Poniamo che verso il mattino, dopo una notte insonne, il sonno lo colga mentre sta leggendo in una posizione troppo diversa da quella in cui dorme abitualmente. Basterà il suo braccio sollevato a fermare e far indietreggiare il sole, e nel primo istante del risveglio non saprà più che ora sia, crederà di essersi appena coricato. Opponiamo che si assopisca in una postura ancor più anomala e inusitata, per esempio dopo cena, seduto in una poltrona. Allora il disorientamento sarà più completo. In quei mondi usciti dalla loro orbita, la poltrona magica lo farà viaggiare a gran velocità nel tempo e nello spazio, e al momento di riaprire gli occhi crederà di essersi messo a letto alcuni mesi prima e in un altro paese. Ma bastava che nel mio vero letto il mio sonno fosse profondo e tale da distendermi del tutto la mente, ed ecco che questa abbandonava la mappa del luogo dove m'ero addormentato, e quando mi svegliavo nel cuore della notte, ignorando dove mi trovassi, lì per lì non sapevo più nemmeno chi fossi. Avevo soltanto nella sua semplicità primordiale il senso dell'esistenza come può palpitare nel fondo di un animale. Ero più denudato dell'uomo delle caverne. Ma allora il ricordo, non ancora del luogo dove mi trovavo, ma di alcuni dei luoghi che avevo abitato e dove avrei potuto essere, mi giungeva come un soccorso dall'alto per sottrarmi al nulla da cui non sarei potuto uscire da solo. In un istante attraversavo secoli di civiltà e le immagini confusamente intraviste di lampade a petrolio, poi di camicie dal colletto ripiegato, ricomponevano a poco i tratti originali del mio io. Forse l'immobilità delle cose intorno a noi ci è imposta dalla nostra certezza che si tratti proprio di quelle cose e non di altre, dall'immobilità del nostro pensiero nei loro confronti. Il fatto è che quando mi svegliavo in quello stato e la mia mente si agitava per cercare senza riuscirci di sapere dove fossi, tutto, oggetti, paesi, anni, vorticava intorno a me nell'oscurità. Il mio corpo, troppo intorpidito per muoversi, cercava di stabilire, in base alla forma della sua stanchezza, la posizione delle sue membra, per dedurne la direzione della parete, la disposizione dei mobili, per ricostruire e dare un nome alla casa in cui si trovava. La sua memoria, la memoria delle sue costole, dei suoi ginocchi, delle sue spalle, gli presentava una dopo l'altra molte delle stanze in cui aveva dormito, mentre tutto intorno le pareti invisibili, mutando posizione secondo la forma della stanza immaginata, vorticavano nelle tenebre. E prima ancora che il mio pensiero, esitando sulla soglia dei tempi e delle forme, avesse identificato l'abitazione accostando i dettagli, lui, il mio corpo, ricordava per ciascuna di esse il tipo di letto, la disposizione delle porte, l'orientamento delle finestre, l'esistenza di un corridoio, insieme al pensiero che avevo avuto al momento di addormentarmi e che ritrovavo al risveglio. Il mio fianco anchilosato, cercando di indovinare il proprio orientamento, immaginava per esempio di essere disteso di fronte alla parete in un gran letto a baldacchino, e subito mi dicevo: guarda, ho finito per addormentarmi anche se la mamma non è venuta a darmi la buonanotte. Ero in campagna, a casa del nonno, morto parecchi anni prima. e il mio corpo, il fianco sul quale ero disteso, guardiani fedeli di un passato che la mia mente non avrebbe mai dovuto dimenticare, mi ricordavano la fiamma della Veillées di vetro di Boemia a forma di urna, sospesa con delle catenelle al soffitto, e il camino in marmo di Siena della mia camera da letto a Combray, nella casa dei nonni, in giorni lontani che in quel momento mi immaginavo attuali, senza rappresentarmeli esattamente, e che avrei rivisto meglio subito, appena fossi stato sveglio del tutto. Poi rinasceva il ricordo di una nuova situazione. La parete correva in una direzione diversa. Ero nella mia stanza a casa di Madame de Saint-Loup, in campagna. Mio Dio, saranno almeno 10, avranno già finito di cenare. Avrò prolungato troppo la siesta che faccio ogni sera di ritorno dalla passeggiata con Madame de Saint-Loup prima di cambiarmi per la cena. Molti anni sono passati dai tempi di Combray, quando nei nostri rientri più tardivi scorgevo i riflessi rossi del tramonto sui vetri della mia finestra. È un altro genere di vita quello che si conduce a Tansonville, in casa di Madame de Saint-Loup, un altro genere di piacere, quello che provo a non uscire che di notte, a percorrere al chiaro di luna quei sentieri dove un tempo giocavo al sole, e la stanza dove invece di vestirmi per la cena mi sarò addormentato, la scorgo da lontano al nostro rientro, illuminata dalle luci della lampada, unico faro nella notte. Quelle evocazioni vorticose e confuse non duravano mai più di qualche attimo. Spesso la mia breve incertezza circa il luogo in cui mi trovavo non distingueva le une dalle altre le diverse supposizioni di cui era costituita, meglio di quanto non riusciamo a isolare, vedendo correre un cavallo, le posizioni successive che ci mostra il cinetoscopio. Ma avendo rivisto ora l'una ora l'altra delle stanze che avevo abitato nella mia vita, finivo per ricordarmele tutte durante le lunghe fantasticherie che seguivano al mio risveglio. Stanze d'inverno, in cui una volta coricati ci si rannicchia con la testa in un nido intessuto delle cose più disparate, un angolo del cuscino, l'orlo delle coperte, il lembo di uno scialle, la sponda del letto e un numero dell'edizione serale di The Bar Rose che si finisce per cementare insieme, secondo la tecnica degli uccelli, stendendovisi sopra indefinitamente. Stanze dove se il tempo è gelido, il piacere che si prova è quello di sentirsi separati dall'esterno, come la rondine di mare che fa il nido nel fondo di un sotterraneo, nel calore della terra, e dove, essendo il fuoco rimasto acceso tutta la notte nel camino, si dorme in un'ampia coltre d'aria calda e fumosa, attraversata dai bagliori dei tizzoni che di tanto in tanto si ravvivano, sorta di impalpabile alcova, di calda caverna scavata dentro la stanza stessa, zona ardente e mobile nei suoi contorni termici, arieggiata da soffi che ci rinfrescano il viso e provengono dagli angoli, dalle parti vicine alla finestra o lontane dal fuoco e che si sono raffreddate. Stanze d'estate, in cui è piacevole sentirsi uniti alla notte tiepida, dove il chiaro di luna che si posa sulle imposte socchiuse getta fino ai piedi del letto la sua scala incantata, e dove si dorme quasi all'aria aperta come la cincia allegra cullata dalla brezza sulla cima d'un raggio. A volte era la stanza Luigi XVI, così allegra che nemmeno la prima sera mi c'ero sentito troppo infelice, e dove le colonnine che sostenevano con leggerezza il soffitto si discostavano con tanta grazia per rivelare e proteggere la zona del letto. A volte, invece, era la stanza piccola e dal soffitto così alto, scavata a forma di piramide per un'altezza di 2 piani e parzialmente rivestita di mogano, in cui fin dal primo istante ero stato moralmente intossicato dall'odore sconosciuto del vetiver, convinto dell'ostilità delle tende viola e dell'indifferenza insolente della pendola che berciava più non posso, come se io non ci fossi. Dove una strana impietosa specchiera con una base quadrangolare, sbarrando obliquamente uno degli angoli della stanza, si apriva a forza uno spazio che non era previsto nella dolce pienezza del mio abituale campo visivo, dove il mio pensiero, sforzandosi per ore di slogarsi, di stirarsi in altezza, per prendere esattamente la forma della camera e arrivare a riempire fino in cima il suo gigantesco imbuto, aveva sopportato molte dure notti, mentre restavo disteso nel mio letto, gli occhi sbarrati, l'orecchio teso, le narici contratte, il cuore in tumulto, finché l'abitudine avrebbe cambiato il colore delle tende, fatto tacere la pendola, insegnato la pietà alla specchiera obliqua e crudele, dissimulato, se non dissipato completamente, l'odore del vetiver e diminuito notevolmente l'altezza apparente del soffitto. L'abitudine, arredatrice abile ma tremendamente lenta, che comincia col far soffrire la nostra mente per settimane, in una sistemazione provvisoria ma che, malgrado tutto, la mente è ben felice di trovare, perché senza l'aiuto dell'abitudine e con i suoi soli mezzi sarebbe impotente a renderci una casa abitabile. Certo, ora ero del tutto sveglio. Il mio corpo aveva compiuto un'ultima giravolta e il buon angelo della certezza aveva fermato ogni cosa intorno a me, mi aveva coricato sotto le coperte nella mia stanza e nell'oscurità aveva messo approssimativamente al loro posto il comò, la scrivania, il caminetto, la finestra sulla strada e le due porte. Ma non bastava che sapessi di non trovarmi nelle case di cui l'ignoranza del risveglio mi aveva in un istante, se non presentato l'immagine precisa, quantomeno fatto credere possibile la presenza. Ormai la mia memoria si era messa in moto. Generalmente non cercavo di riaddormentarmi subito. Passavo la maggior parte della notte a ricordare la nostra vita di un tempo a Combray, dalla mia prozia, oppure a Balbec, a Parigi, a Dancière, a Venezia e altrove ancora, a ricordare i luoghi, le persone che vi avevo conosciuto, quel che di loro avevo visto, quello che me ne avevano raccontato. A Combray, tutti i giorni, sul finire del pomeriggio, molto prima del momento in cui avrei dovuto mettermi a letto e restare là senza dormire, lontano dalla mamma e dalla nonna, la mia stanza da letto ridiventava il punto fisso e doloroso delle mie preoccupazioni. Avevano sì escogitato per distrarmi le sere in cui trovavano che avessi un'aria troppo infelice, di regalarmi una lanterna magica con cui in attesa dell'ora di cena veniva coperta la mia lampada e che alla maniera dei primi architetti e maestri vetrai dell'età gotica sostituiva all'opacità delle pareti iridescenze impalpabili, soprannaturali apparizioni multicolori, dove erano dipinte leggende come in una vetrata vacillante ed effimera. Ma la mia tristezza non era che accresciuta, perché nulla come il cambiamento di illuminazione valeva a distruggere l'abitudine che avevo della mia stanza e grazie alla quale, escluso il supplizio di coricarmi, mi era diventata sopportabile. Ora non la riconoscevo più ed ero preso dall'agitazione come in una stanza d'albergo di chalet in cui fossi arrivato per la prima volta scendendo dal treno. Al passo caracollante del suo cavallo, Golo, l'animo pieno di un atroce disegno, usciva dalla piccola foresta triangolare che vellutava di verde cupo il pendio di una collina e avanzava sobbalzando verso il castello della povera Geneviève de Brabant. Il castello era tagliato secondo una linea curva, che altro non era se non il bordo di uno degli ovali di vetro montati su un telaio che si inserivano nelle guide di scorrimento della lanterna. Era solo un'ala del castello, davanti alla quale si estendeva una landa, e in quella Geneviève, che indossava una cintura azzurra, era assorta in fantasticherie. Il castello e la landa erano gialli, ma non avevo dovuto aspettare di vederli per conoscerne il colore, perché prima ancora dei vetri della lanterna me l'aveva rivelato distintamente la sonorità mordorée del nome di Brabant. Golo si fermava un istante ad ascoltare tristemente, con l'aria di comprendere alla perfezione la didascalia letta ad alta voce dalla mia prozia, e uniformava il proprio atteggiamento alle indicazioni del testo con una docilità che non escludeva una certa regalità. Dopodiché si allontanava con la stessa andatura caracollante e niente che potesse arrestare la sua lenta cavalcata. Se si spostava la lanterna, vedevo il cavallo di Golo continuare la sua avanzata sulle tende della finestra, gonfiarsi sulle pieghe, sprofondare nei loro solchi. Il corpo stesso di Golo di un'essenza non meno soprannaturale di quella della sua cavalcatura, si adattava a qualsiasi ostacolo materiale, a qualsiasi oggetto ingombrante che gli capitasse di incontrare, assumendolo come ossatura e incorporandolo. Fosse anche la maniglia della porta, alla quale si adattava immediatamente e sulla quale galleggiavano invincibilmente la sua veste rossa e il suo volto pallido, sempre ugualmente nobile e malinconico, ma che non lasciava trasparire il minimo turbamento per quella transvertebrazione. Certo, trovavo affascinanti quelle brillanti proiezioni che sembravano emanare da un passato merovingio, e facevano scorrere intorno a me riflessi di storia così antichi, ma non so dire che malessere nello stesso tempo provocasse in me una simile intrusione del mistero e della bellezza in una stanza che avevo finito col riempire del mio io, al punto da non far più caso né all'uno né all'altro. Venuto meno l'effetto anestetizzante dell'abitudine, mi mettevo a pensare, a sentire cose talmente tristi. Quella maniglia della porta della mia stanza, che differiva per me dalle maniglie di tutte le altre porte del mondo, perché sembrava aprirsi da sola, senza che io dovessi girarla, tanto il gesto m'era divenuto automatico, ecco che ora serviva da corpo astrale di Golò. E appena suonavano per la cena, ero ansioso di correre nella sala da pranzo, dove il grande lampadario, ignaro di Golò e di Barbe Bleue, ma che sapeva tutto dei miei genitori e del mangio in casseruola, spandeva la sua luce di ogni sera, e mi rifugiavo tra le braccia della mamma, che le sventure di Geneviève de Brabant mi rendevano più cara, mentre i misfatti di Golò mi spingevano a esaminare la mia coscienza con maggiore scrupolo. Dopo cena, ahimè, ero subito costretto a lasciare la mamma, che restava a conversare con gli altri in giardino se era bel tempo, o nel salottino, dove tutti si ritiravano quando il tempo era brutto. Tutti, tranne la nonna, che trovava un peccato restare al chiuso in campagna e che aveva continue discussioni con mio padre, nei giorni di grande pioggia, perché mi mandava a leggere nella mia stanza, invece di farmi restare fuori all'aperto. «Non è così che lo renderete robusto ed energico», diceva lei tristemente. «Proprio questo bambino che ha tanto bisogno di acquistare forza e volontà». Mio padre alzava le spalle e scrutava il barometro perché amava la meteorologia, mentre mia madre, evitando di far rumore per non disturbarlo, lo guardava con un rispetto intenerito, ma senza troppa insistenza, per non tentare di penetrare il mistero delle sue superiorità. Ma la nonna, lei, con qualsiasi tempo, anche quando la pioggia imperversava e Françoise aveva riportato dentro precipitosamente le preziose poltrone di Vimini perché non si bagnassero, la si vedeva nel giardino deserto e sferzato dall'acquazzone sollevare le sue ciocche disordinate e grigie perché la fronte assorbisse meglio la salubrità del vento e della pioggia. «Ah, finalmente si respira», diceva, e percorreva i vialetti inzuppati d'acqua, troppo simmetricamente allineati per il suo gusto dal nuovo giardiniere sprovvisto del sentimento della natura e a cui mio padre aveva chiesto sin dal mattino se il tempo si sarebbe aggiustato, con il suo breve passo entusiasta e saltellante, regolato sui diversi moti che le destavano nell'animo, l'ebbrezza del temporale, il potere dell'igiene, la stupidità della mia educazione e la simmetria dei giardini, piuttosto che sul desiderio a lei ignoto di evitare le macchie di fango sotto le quali spariva quasi completamente la sua gonna color prugna fino a un'altezza che era il cruccio e la disperazione costante della sua cameriera. Quando quei giri della nonna in giardino avvenivano dopo cena, una sola cosa aveva il potere di farla rientrare, ed era quando, in uno di quei momenti in cui la rivoluzione della sua passeggiata la riportava periodicamente come un insetto davanti alle luci del salottino dove venivano serviti i liquori sul tavolo da gioco, era quando la mia prozia le gridava «Bathilde, vieni a dire a tuo marito che lasci stare il cognac!» E in effetti, per stuzzicarla, la nonna aveva portato nella famiglia di mio padre uno spirito così diverso che tutti la prendevano in giro e la tormentavano. Siccome i liquori al nonno erano proibiti, la prozia gliene faceva bere un goccetto, La nonna, poverina, correva dentro casa, pregava ardentemente il marito di non toccare il cognac. Lui si irritava, ne beveva un sorso lo stesso. E la nonna se ne andava via triste e scoraggiata, ma sempre sorridente, perché era così umile di cuore e così dolce che la sua tenerezza per gli altri e la scarsa importanza in cui teneva la propria persona e le proprie sofferenze si conciliavano nel suo sguardo in un sorriso, dove, contrariamente a quello che si vede sul volto di tanti esseri umani, non c'era ironia se non per se stessa e per tutti noi invece come un bacio dei suoi occhi che non potevano posarsi sulle persone che le erano care senza accarezzarle appassionatamente con lo sguardo. Quel supplizio che le infliggeva la mia prozia, lo spettacolo delle vane preghiere della nonna, della debolezza sconfitta in partenza con cui cercava inutilmente di strappare al nonno il bicchierino di liquore, era una di quelle cose alla cui vista ci si abitua col tempo fino a riderci sopra e a prendere le parti del persecutore con sufficiente risolutezza e allegria da persuaderci che non si tratta di persecuzione. Ma allora mi ispiravano un tale orrore che avrei voluto picchiarla la mia prozia. E invece, appena sentivo «Bathilde, vieni subito, di' a tuo marito di non toccare il cognac!» Essendo già uomo, in quanto a viltà, facevo quello che facciamo tutti una volta divenuti adulti, davanti alle sofferenze e alle ingiustizie. Non volevo vederle. E salivo a singhiozzare nella parte più alta della casa, accanto allo studio, sotto il tetto, in una piccola stanza odorosa di iris e che anche un ribes selvatico, cresciuto all'esterno tra le pietre del muro e che insinuava un ramo fiorito attraverso la finestra socchiusa, riempiva del suo profumo. Destinata a un uso più specifico e più volgare, quella stanza, da cui di giorno la vista spaziava fino alla torre di Ruthonville-les-Pins, mi servì a lungo da rifugio, senza dubbio perché era l'unica che mi fosse consentito chiudere a chiave, per tutte quelle tra le mie occupazioni che richiedevano un'inviolabile solitudine, la lettura, le fantasticherie, le lacrime e il piacere. Ahimè, non sapevo che ben più tristemente delle piccole trasgressioni del marito alla sua dieta erano la mia mancanza di volontà, la mia salute delicata, l'incertezza che l'una e l'altra proiettavano sul mio futuro, ad angustiare la nonna durante quelle incessanti deambulazioni del pomeriggio e della sera, quando la si vedeva passare e ripassare, tenendo sollevato verso il cielo il suo bel volto dalle guance scure e solcate di rughe, divenute con l'età di un colore quasi malva come i campi arati d'autunno. Protette, quando usciva, da una veletta sollevata a metà e sulle quali, portata là dal freddo o da qualche pensiero triste, era sempre sul punto di asciugare una lacrima involontaria. La mia sola consolazione, quando saliva a coricarmi, era che una volta a letto la mamma sarebbe venuta a darmi un bacio. Ma quella buonanotte durava così poco, lei ridiscendeva così presto, che il momento in cui la sentivo salire, l'attimo dopo, quando il fruscio leggero del suo abito da giardino di mussola azzurra, da cui pendevano dei cordoncini di paglia intrecciata, percorreva il corridoio a doppia porta, era per me un momento doloroso. Era l'annuncio di quello che sarebbe seguito quando mi avrebbe lasciato, quando sarebbe ridiscesa. Così arrivavo ad augurarmi che quella buonanotte che amavo tanto giungesse il più tardi possibile, affinché si prolungasse il tempo di tregua durante il quale la mamma non era ancora venuta. A volte, quando dopo avermi baciato apriva la porta per andarsene, avrei voluto richiamarla e dirle «dammi un altro bacio». Ma sapevo che si sarebbe infastidita, perché la concessione che faceva alla mia tristezza e alla mia agitazione, salendo ad abbracciarmi, a recarmi quel bacio di pace, irritava mio padre, che trovava assurdi quei riti, e lei avrebbe voluto tentare di farmene perdere il bisogno, l'abitudine, altro che lasciarmi prendere quella di chiederle, quando stava già per varcare la soglia, un altro bacio. Ora, vederla contrariata distruggeva tutta la calma che mi aveva recato un istante prima, quando aveva chinato sul mio letto il volto amoroso e me l'aveva offerto come un'ostia per una comunione di pace da cui le mie labbra potessero attingere la sua presenza reale e il potere di addormentarmi. Ma le sere in cui la mamma, tutto sommato, restava così poco tempo nella mia stanza, erano ancora dolci in confronto a quelle in cui c'era gente a cena, e lei per questo non saliva a darmi la buonanotte.